Stato, amo la sua gente, amo perché mandarli a fare in culo, sai, mi rende indipendente. Amo la democrazia, manifesti in piazza e poi se arrivo a farlo scontro con la polizia. Amo l'inno nazionale perché canti a squarciagola, ma non conosci il senso di ogni sua parola. Amo il tricolore, fa più effetto sulla barra di un soldato che si è spento. Valla a dire a quei signori in Parlamento. Amo le persone della mia regione, perché se sbaglio una parola poi mi danno del terrone. Amo l'orgoglio da italiano, amo il mio paese, nato piemontese ma col cazzo siciliano. Amo il sistema americano, bombardiamo, li uccidiamo fino a quando quello stronzo con la barba lo troviamo. Wow. Amo il Vaticano, otto per mille aiuti umanitari, costruisce chiese dove servono ospedali. Amo chi mi giudica, i fenomeni vestiti con la tunica. Occhio non parlare troppo, se non quello ti scomunica. Amo il prossimo e tutto ciò che viene, e ancora ci raccontano che vada tutto bene. Invece quelli prima ben pensato di infilarci le catene. Se tutte minchiate, Scotch è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Scotch è uno sfigato. Petro è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Petro è uno sfigato. Amo questo popolo come Rema amava Romolo. La regina porta merda, tu portati il rotolo. Amo la vita al massimo, voglio tutto in un attimo. Amo la mafia perché è brutta ma il suo fascino. Amo i nostri stipendi, gli imprenditori intraprendenti. Tu quanto prendi? Io prendo uno con gli aumenti. Lui 19 e se ti lamenti chiudono i patenti e si tengono 20. Amo il politico sul jet, la pilla alla soubrette. Amo chi odia il rap, amo le leggi a suo favore. Amo il sì signore, amo tutti i privilegi del lavoratore. Amo il pizzo nella busta, il padrone con la frusta, i consigli le battute del Berlusca. Amo chi crea ciò che distrugge e lo trova ricreativo. Amo la passione se puzza di incentivo. Amo chi mi insulta, il vigile e la multa, la tassa che hai pagato ma la sede non risulta. Qui tutto si ribalta, sommergibili per aria, elicotteri sott'acqua. Scotch è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Scotch è uno sfigato. Petro è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Petro è uno sfigato. Amo chi mi urla e chi mi punta il dito con due carezze, credono di farmi stare zitto. Sto scemo, gira col Mercedes e poi piange per l'affitto. Ami perché sei libero o solo perché scleri per un posto di lavoro misero. Amo chi mi ha detto del bugiardo, bastardo, codardo, bambina. Se mi trovi a questo punto è solo perché sono testardo. Amo le persone con addosso una divisa. Sta gente c'ha le palle sotto solo quando fanno una perquisa. Amo gli impegnati, gli eterni complessati, che la prima gara persa li ritrovi alcolizzati. Amo i presi male, chi ha solo da parlare, chi fa la morale, chi mi fa la paternale. Amo questa musica, amo questa arte, chi diceva che il suo valiziente non andava da nessuna parte sparte. Amo chi c'ha tutto e chi ha fatto una rinuncia, se era per la scuola andava a vendere carciofi all'Esselunga. Amo chi c'ha voce nel capitolo, chi non conta un cazzo, chi mi ha detto sei ridicolo. Amo i sapientoni, amo chi mi spiega, e se non ho capito a chi cazzo gliene frega. Amo questo effetto, chi ha la concezione del rispetto, chi parla, parla e poi si portano le nostre tipo a letto. Amo i sentimenti, amo ciò che odio, perché è un sentimento da provare ancora prima di cambiare. Se beccati questa, Scotch è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Scotch è uno sfigato. Petro è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Petro è uno sfigato. Scotch è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Scotch è uno sfigato. Petro è innamorato e lo trovi in questo stato. Nessuno l'ha cagato perché Petro è uno sfigato.